Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo a parlare di equity crowdfunding stasera dopo la puntata di ieri nella quale abbiamo ricordato come l'Italia sia l'unico paese al mondo ad aver regolato questa attività, attraverso la quale un cittadino può investire in una startup innovativa acquisendone una piccola quota. Secondo la società di intermediazione immobiliare Intermonte SIM, l'equity crowdfunding potrebbe portare almeno 70-80 milioni di euro all'anno di finanziamenti nelle tasche di queste neo imprese innovative. È più o meno la stessa cifra investita in Italia dai venture capital. Tuttavia solo una su almeno 2.300 startup innovative, sono quelle registrate, è riuscita a far partire e anche a completare la raccolta fondi. Il motivo è che in pratica la normativa italiana tratta le startup innovative come delle piccole SPA quando si tratta di acquisire le quote, ma come delle SRL di fatto quando si tratta di venderle, il che comporta per esempio un atto notarile, un esborso di 500 euro che spesso è più della quota investita. Il Ministero dello Sviluppo Economico però adesso sembra pronto, insomma, a correggere questa e altre storture. Ne parliamo con il capo della segreteria tecnica del MISE, Stefano Firpo. Buonasera Firpo. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Insomma, che cosa pensate di cambiare rispetto alla situazione attuale? Beh, intanto mi faccio solo dire questa nuova normativa, che è veramente molto innovativa, sta andando bene, cioè poteva esserci nessun tipo di interesse su questa cosa qua, e invece sono nati ormai 3 portali online che fanno questo tipo di attività e le prime startup innovative hanno iniziato a raccogliere capitali. Però è molto poco rispetto a quello che si potrebbe fare, no? Certo, il potenziale è enorme. Era importante iniziare da un bacino piccolo per riuscire a portare avanti, a sperimentare su questo bacino piccolo, ed è questo il motivo per cui l'abbiamo per ora solo relegato alle startup innovative. L'evidenza ci sta confortando. Bisogna agire su 2 fronti. Uno, eventualmente valutare di allargare il bacino, perché solo le startup innovative? 2, ancora oggi il mercato secondario per gestire le quote di partecipazione di queste società, come lei ricordava prima, ha tutta una serie di gabelle di varia natura che rendono molto costoso poi negoziare e movimentare queste partecipazioni. Cioè sono illiquide, sono come avere una quota azionaria solo che è illiquida, e che non è granché per una quota azionaria. Esattamente. No? E quindi su questo si possono fare degli interventi per rendere sostanzialmente meno costosa, soprattutto per chi investe, l'investimento in questo tipo. Quindi niente più notaio per esempio per trasferire quote di società, niente più registrazione presso il registro delle imprese per acquisire magari una quota di qualche decina o centinaio di euro, niente registrazione presso l'agenzia delle entrate per la stessa attività, insomma. Certo, esattamente, ed è un po' paradossale che se da un lato abbiamo utilizzato internet per creare l'accesso a queste imprese agli investimenti, è un po' strano che continuiamo a girare invece con sostanzialmente i valori bollati e le azioni materializzate, quando invece si potrebbero benissimo dematerializzare e levare tutta una serie per esempio quando c'è una quota magari posso evitare di fare un contratto scritto, no? Esatto. Quota di 50 euro, esatto. Come previsto già per le SPA. E diciamo, si tratterebbe di trattare queste quote più o meno come si trattano quelle delle società per azioni dematerializzate. Esatto. È un po' questo il principio, perché diciamo di là sulle società per azioni ci sono tanti controlli e tanta trasparenza, che magari qui non c'è, ma le quote qui sono piccolissime. Esattamente. Senta, tempistiche. Ma tempistiche, noi stiamo ancora un po', la normativa è recentissima, è da pochi mesi che è in vigore, sì. E quindi vogliamo ancora prenderci un po' di spazio per vedere che tutte le cose vadano bene, che non ci sia nessun tipo di problema. Dopo questo periodo di incubazione, di monitoraggio, noi potremmo essere pronti a valutare un intervento normativo che ulteriormente spinga. Ma riesce a darmi qualche... perché sembrava che foste pronti, insomma, pronti almeno a fare le correzioni che servono, perché è vero che allargare per esempio è molto interessante a tutte le startup, però nel frattempo 2.300, qualcuno dice 5.000 startup innovative, oggi di fatto non riescono ad accedere a questo strumento di finanziamento in molti casi, no? Non si potrebbe intanto dargli una bottarella. Ma sul tema dell'allargare la platea ci stiamo già lavorando, abbiamo Benissimo. Già qualche idea e forse potremmo anche fare un intervento di più breve termine su questo tema. Sul tema invece della, diciamo, della liberalizzazione, sì, della negoziazione sul secondario, un tema un po' più delicato anche, okay, dal punto di vista normativo, perché bisogna intervenire sul norme del codice civile e vogliamo prenderci un pochino più di spazio per valutare bene quello che sta succedendo nel mercato e fare degli interventi diciamo modulati e coerenti con... Lei riesce a dirmi a darmi una tempistica indicativa di cosa stiamo parlando? Di mesi o di settimane? Mesi, o di anni? Di mesi, assolutamente di mesi. Va bene, grazie mille allora Stefano Firpo. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.